Zot. Fulminati in azienda. Allora ragazzi, vi ho riunito oggi perché i nuovi azionisti vogliono una rivoluzione, ve lo devo dire, che vogliono un approccio nuovo con delle implicazioni significative per tutti noi. E la rivoluzione è il cliente al centro. Un'altra volta, ma sono 10 anni che mettiamo al centro, una volta sì, una volta no, ad anni alterni. Ascoltatemi, questa volta è diverso, veramente, ho capito. Perché lo mettiamo ancora più al centro, cioè ne facciamo il nostro target. Ecco, nel senso del bersaglio e lo impalliniamo. Io come consulente suggerirei un'azione organizzativa e commerciale che metta il cliente al centro. Bravo, questa è propositività e arguzia, bravo super consulente, bella idea. Potremmo fare una campagna dal titolo "Il cliente al centro e noi tutti attorno". Gagliardo, mi piace, così ogni tanto potremo pure corcarlo de botte. Ma che rozzità, c'entri, il cliente va trattato con i guanti. Allora scusate ragazzi, adesso, guanti da box. Scusate, ecco, bando alle ciance e basta, piuttosto bisogna cambiare l'organizzazione, sennò sembra che non facciamo sul serio, hai ragione, un nuovo disegno organizzativo che rifaccia il look a questo organigramma ormai stantio. Certo, consiglierei appunto di orientarsi verso un'organizzazione cliente-centrica, passando dalle vecchie divisioni organizzate per prodotto a nuove divisioni organizzate per tipo di cliente. Bravo, geniale. Scusate, però questa era l'organizzazione dei 2 anni fa, l'avevamo appena cambiata, ricambiamo un'altra volta. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Alternanza ci vuole, l'organizzazione va alternata, così si dà un'idea di dinamismo. Centri di change management. A capo, mo rifamo organizzazione cliente centrica, comunichiamo il nuovo orientamento verso il cliente, ma i prodotti restano uguali. Ma certo, centri, ma perché dobbiamo cambiare i prodotti? L'importante è venderli. Al massimo potremmo cercare qualche nuova diavoleria per vendere di più. E fino a che al cliente, così si sente de più al centro. Ma certo, centri, il cliente è egocentrico, si sente più al centro e ti compra di più. Vabbè, comunque se vuoi una diavoleria ti tocca sentire qualche venditore esperto, tipo che ne so, o Squalo, per esempio. Bravo, fammelo chiamare, va. Lo Squalo, il numero in memoria. Pronto? Oh, su pezzo! Carissimo! Allora, quando è che mi vieni a trovare? Se famo una bella magnata di matriciana dal padellaro alla riccia! Grandissimo Squalo, guarda, appena mi permettono gli impegni di scappare, vengo a trovarti il prossimo mese. Piuttosto, ti preannuncio una grande novità strategica, Squalo. Da oggi si mette il cliente al centro, si cambia marcia. Bella capo, mi sembra una grandissima idea, come nel 2002, nel 2006, famo come i mondiali, ogni 4 anni lo mettevo al centro. Senti Squalo, sono contento che apprezzi, ti ho chiamato perché mi serve il coinvolgimento della nostra forza strategica, i venditori, la vostra esperienza sul campo. Perfetto, quindi mi permetti capo, diciamo, di darti un paio di dritte? Ci mancherebbe altro, prendo nota, prendo appunti Squalo. Allora scrivi, ce devi da levare dal catalogo l'X900, non se lo compra nessuno. Ce devi autorizzare una campagna di sconti tipo 3x2, 4x8, 2x6, fai come te pare. E in finale dovremo creare una bella carta fedeltà di quelle coi punti. Eh sì, però perdonami Squalo, ascoltami, tutte queste cose qui le vuoi per avere la vita più facile, eh? Sentimi bene, ma se i prodotti sono buoni li diamo via anche gratis, allora tu a che cosa mi servi? Metto lì un distributore automatico agli angoli delle strade e i prodotti vanno via da soli. Sul pezzo non fa così, lo sai che io ci rimango male, ascolta i suggerimenti piuttosto e fatte vedere soprattutto che l'ultima volta a Ponte Galeria da Nanda gli avevamo dato giù che è una bellezza. Ciao bello. Ciao. Oh, ma chi è sta Nanda? Che te sei fatto un'altra fiamma? Capo, lo sai che cose che ha detto Squalo a parte Nanda, mi hanno proprio fatto pensare. Ma dai, stava scherzando, figurati se ritiriamo il nostro prodotto di punta, se ci mettiamo a fare sconti e carte fedeltà. Tra l'altro, scusami, i nostri clienti sono fedelissimi. Allora Marco, guarda, vieni qua perché io e il mega consulente Paragone abbiamo avuto una pensata, una cosa, un piano de marketing, per quelli che non ci hanno ancora traditi, ma che stanno pensando di metterci un cornino che ha concorrenza, capito? Magari famo redime. Va bene, sono curioso, centri, fammi sentire, basta che non ci costino troppo questi fedifraghi. Partiamo dal prodotto X900. L'idea è fare una promozione per la primavera-estate 2010, tutti a metà prezzo, e mettiamo in vendita quelli difettosi. È geniale, no? Perché in pratica dopo 2 mesi se guastano, noi gli famo la manutenzione e se famo pure paga a riparazione, perché il tipo di guasto non è in garanzia. Bello, no? Bello, geniale. Così alla fine il cliente ha comunque un prodotto funzionante ed è contento. Bravi ragazzi, bravi. Sugli sconti potremmo effettivamente fare un 4 al prezzo di 2, ma solo sui prodotti deperibili che scadono nelle successive 48 ore. Ecco, perché vedi Marco, seguimi, anche se i prodotti il cliente non li userà mai perché sono scaduti, è contento lo stesso, perché se è preso 4 prodotti anziché 2 a un prezzo vantaggioso è felice. Ma è straordinario, così abbiamo da una parte il cliente contento, dall'altra il magazzino vuoto e quindi Customer Orientation and Ecologics Multimension. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.